Mario. E che? Tu sei tanto imbecille, povera creatura. Io so. Tu fai schifo a guardarti. Io so. Tu sei brutto e scemo, tu fai ribrezzo al popolo del mondo. Io so. Mario, tu sei un uomo, tu sei un lombrico. E lo so, ma... Mario! Mammina! Tutta leve, tu mi fai effetto all'intestino! Anche Dio ne punto giusto! Mi ha portato via a 4 anni la tua sorellina, le darmi felicità, era un angelo! Te le provai tutte per abortire. Non ci fu verso. Tu sei voluto nascere per forza. Ecco, sei contento? E tu sei il mio patimento. Tu sei la mia lamentela, il cielo! Tu sei il soffrimento della mia giornata, il sogno brutto della mia nottata! Tu sei l'opprobrio della vista mia! Dio del cielo, trattienimi la tentazione d'affogarlo perché la voglio, l'è tanto! Mario, tu fai schifo! Tu metti in subuglio il mio sistema di donna sensibile! Non ti sopporto, non ti sopporto! Tu mi fai rivoltare i budelli! Bella figlia te! Secondo me è passata la censura, l'organo di censura anni 30, anni fascio, e non solo, quello che arriva fino ai giorni nostri. Ci scusiamo per questa cazzo di interruzione, perché... Oh sì, ho fatto qualcosa col microfono. Perché sì, abbiamo avuto qualche problemino di linea, di regia, sfiga. Di sfiga, come al solito, d'altronde. Porteremo anche questa parola, forse, tra le nostre ricerche. La sfiga. Partiamo dalle origini, partiamo però. Dalle origini, però. Dovremmo fare tutto molto condensato solamente in una 20-25 di minuti, una manciata proprio di tempo sì. Trascorso assieme qui. All'Accademia della Brusca con la sesta puntata della seconda stagione in versione mignon. Ecco, pensavo in versione mignotta. No, in versione mignotta si poteva dire anche. Sì, sì, infatti io pensavo, speravo tu andassi a parare lì, ma invece no. No, no, no. Che brava. Cara mia, senti, ma allora, la conclusione della puntata scorsa parlava di cazzi e cazzate, giusto? Sì. Oggi vogliamo lottare per la parità dei sessi e dei generi? Ovviamente. O che cosa? Dimmi un po'. Possiamo sì votare per la parità di generi e utilizzare un po', insomma, anche questa settimana una terminologia molto accurata e molto particolare. Uè figa! Uè figa! Perché dopo la puntata del cazzo... si fa una figa di puntata. Ognuno il suo. Ashakan le siede, esattamente. Oh, e allora. Brava. Ma partiamo dal sacro, dal profano. Dal profano, ma sì, dai. Allora, non lo so, fai tu, come ti senti? Mi sento che dobbiamo andare veloci. Mi sento. sento che dobbiamo andare molto di fretta, ma abbiamo deciso con la Nenia che faremo uno split. Oggi vi faremo un teaser, come direbbero nel gergo musicale, cioè facciamo una piccolissima parte di introduzione, un cappello, e poi la prossima volta ci divertiremo benvenino insomma, parlando un po' di tutto quello che è il resto della tematica di questa sera, la figa o la fica, o la sorca o la topa, visto prosegue, no, il nostro, come dire, il nostro percorso sugli sproloqui e su tutto quello che è la parolaccia italiana. Mamma. Con queste origini così auliche. Però sì, appunto, partiamo dal profano. Non ciclopedia, la conoscete, tu Nenia la conosci. Sì. Che cos'è la figa? La figa è acronimo di Fretted Instrument Guild of America, in italiano cooperativa americana dello strumento tastabile, o anche gilda americana strumenti toccati. Incredibile. È un'organizzazione musicale internazionale senza scopo di lucro che è stata fondata nel 1957 nel Illinois. Questa cosa è geniale. Fretted Instrument Guild of America. Quindi ogni volta che vi riprenderanno per il vostro turpiloquio, ma come sei maleducato? Cosa credi? Quello che hai detto non mi piace per niente. Beh, cara, io stavo parlando del Fretted Instruments Guild of America. Con un accento British. British, of course. E non della fica. Poi avevamo anche, avremo, vediamo insomma con quale tempo verbale volete, un sacco di belle canzoncine per stasera, per cui, e anche per la prossima settimana. Per cui, che si fa? Versione super condensed, ma... Ma sempre bene, ne ben condita. Uè figa. Vabbè, già dopo lo spottino di Benigni con Bella Fiate. Partiamo. Povero Mario di Berlinguer, ti voglio bene. Io partirei con la poesia. Sì, allora, vi diamo uno spunto letterario su cui riflettere. Perché avevamo letto quella del padre degli santi la volta scorsa e invece ci sentiamo di approfondire. Della madre. Dandovi anche la madre del ecco. sante. Ecco. La madre delle sante. Chi vo chiede la monna a Caterina, per farsi intendere dalla gente dotta, gli toccherebbe di curva, vaccina e da giù con la gurna e con la posta. Ma hanno altri, fiacci de mignotta, dimo cella, patacca, passerina, fessa, spacco, fissura, bucia, grotta, fregna, fica, ciabatta, chitarrina. Sorca, vaschetta, fodero, frittella, cicia, sporta, perugga, barbelosa, chiavica, gattarola, finestrella, fischerola, quel fatto, quella cosa, urinale, fracoscio, ciumachella, la gabbia del pipino e la brodosa. E se vuoi la cimosa, chi la chiama vergogna e chi in natura, chi ciufega, tagliola e se portura. E gnocca! E la gnocca ci manca però, ce la dovevo dire. Infarinatura generale su quanti termini sinonimi potete utilizzare per variare dal più classico figa o più centro italico fica. Ecco. Ecco, prendete spunto, anche la tagliola non è niente male. Allora, stavamo un po' pensando come cercare di condensare questa puntata. Non vi parleremo oggi di tutti i sinonimi più diffusi, dalla sorca alla topa, e partiremo direttamente con l'etimo, quindi anche stasera non la scampate, di fica e figa, che in realtà sono due varianti, diciamo, foneticamente diverse dello stesso termine, e il termine primigenio sarebbe fica, perché è quello che, diciamo, dalla derivazione ha una derivazione più diretta dal latino, ovviamente. Che cosa pensavate? Che fosse una parola ostrogota? Scusa. Chi l'ha inventata? E, ovviamente, termini volgari della lingua italiana, di uso comune, impiegati per indicare una parte dell'apparato genitale femminile. Qui ci starebbe bene la musichetta, la sigla di Quark, in sottofondo. Ossia la vulva e, per estensione, anche la stessa vagina. Un booty. Come il termine cazzo, non si tratta di semplici sinonimi del termine anatomico, bensì rappresentano una forma dell'espressività letteraria e popolare. Capito? Allora, premessa. Se il 70% delle varianti del termine fica, dei sinonimi, derivano da topo... Grazie. Questo deriva da una cosa leggermente più poetica, se così vogliamo dire, ma ovviamente banalissima. Ma sarà per il puzzo, per la forma? Cioè, che cos'è? Che... Il topo, dici? La topa, non ne ho proprio idea, perché se no allora, vabbè, se dobbiamo ragionare per in estrema sintesi... Ma mai dire mai. Potrebbe, sai. Allora da stasera si dirà topo. Metti via il topo. Non mi va, stasera non mi va, metti via il topo. Eh sì, sì, si può fare. Oddio. Bah, che dire? Curiosità. Curiosità, così. Come diceva Elio, ditemi perché, se la mucca fa mu, il bello non fa me. Mi sembra non faccia una piega sta Infatti. Cosa. Vabbè. Fica, termine derivante dal tardo latino. Fica, frutto del fico, come femminile di ficus, albero del fico, quindi il famoso ficus carica, che è il banalissimo, se così vogliamo dire, albero da frutto. E ovviamente espanso ad accezione di apparato sessuale femminile. C'è una dicotomia, cioè al frutto del fico, usate il latino, che è sì sempre parallelo alla parte anatomica femminile, ed è un fatto che viene riportato da un sacco di testoni dell'epoca, tra Aristotele, che addirittura lui è greco, e già la parola che utilizza, quindi greca, sikon, significa fico e ha sempre accezione di vagina. E viene usato anche da Aristofane nelle sue commedie, quindi è in realtà, che cosa ne deduciamo da questo? Che è un calco, cioè non è una parola di origine latina, ma l'espressione, il modo di utilizzo della parola passa dal greco al latino, ovviamente con le due terminologie separate, non c'è una derivazione diretta, semplicemente i latini, se vogliamo farlo molto semplice, copiano i greci, perché evidentemente avevano trovato anche loro una buona parte di similitudine tra quello che è il frutto e quello che è l'organo. E quindi il termine passa nel tardo latino e di conseguenza però come derivazione diretta anche nella lingua italiana. E non è finita qui, visto che è una cosa particolarmente antica la fica. Il termine greco deriva a sua volta dal fenicio e precedentemente dall'accadico, picu, ovvero sicu, dal 2300 a.C. Mica da ieri. Esatto. Di cui assume propriamente solo il significato comune dell'organo sessuale. E da cui derivano anche verbi poi associati alla copula sessuale, ovviamente, non quella grammaticale. Ovviamente. Ecco. Che dire, anche dire che è giusto si ascoltare qualcosa un po'. Vi facciamo sentire qualcosa? Eh sì, dai. Un qualcosa di soft. Dai. Siamo Elio e le storie tese, pronunciamo tante parolacce, siamo al centro delle vostre tese, siamo gli alfieri dell'impero Sbor. Siamo d'accordo pressoché su tutto, ma talvolta divergiamo, per esempio sulle parolacce, ognun dice quella che gli va. Merda! Sono noi, siamo tutti bene, la spaghetti sono da giornale, sangue al mangio e se siamo genia, rosso in testa e affetto di cotrinco. Unanimi! No, no, no, no, no, no, no, non è un'illusione. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, siamo qui con voi. L'avete saputo tutti. Chissà, si sciolgono. Ma io non ci credo, dai. E in realtà secondo me hanno già detto tutto quello che dovevano dire, si sono fermati nel 96 forse. Sì, magari si scioglie il gruppo, cioè nel senso non faranno più concerti, però boh, magari continuano a fare qualcosa. Il progetto. Il progetto va avanti, ma io mi augurerei di, insomma, non lo so. Cioè, è anche vero che con tutto quello che hanno fatto noi potremmo campare di rendita per un bel po', quindi insomma, se si vogliono riposare bene. Basta che Elio non inizi a fare... E che non sono cazzi nostri. Esatto, soprattutto. Ecco, per quindi, usare un'espressione cara alla puntata scorsa. Esatto. Facciamo un altro excursus. Sul latino? Sul latino? Manca lui, o no? Quale? Il conno. Esatto, esatto. Cunnus. Cunnus. Che tra l'altro è anche la derivazione di gunnu, in sardo per l'appunto, su ecco. Gunnu. Su gunnu. Sì, deriva dal latino. Uso della parola è, diciamo, volgare oppure... Estremamente volgare. Estremamente. Cioè, nemmeno io oserei mai in Sardegna dire su gunnu a qualcuno. Cioè, proprio no, è estremamente volgare. Sì. Chi la usa questa parola? Intervista. Non lo so, cioè viene usata parecchio, però o ridicolizzandola su gunnu. Però no, comunque non perde mai quella volgarità, pesa proprio. Anche che... se lo fai tipo oh, su gunnu, come sì. Faresti proprio la British. Sì, rimane sempre quel certo non so che culturale che te la fa capire, cioè proprio sì, te la fa percepire come super volgare più di qualsiasi altra cosa, cioè più che sì. Non so, non trovo un paragone. Sì che ha un'origine. Ma non perché non ce ne siano, perché non lo trovo mai io quando faccio un paragone con questa parola qui, trovo sempre qualcosa di non all'altezza. Sto provando a pensare qualcosa, ma nel nord Italia cioè, il non budello ci sono di Tumà in confronto fa sorridere anche Tumà. Perché il budello... Però... come espressione si viene utilizzata comunque in contesti in cui poi alla fine ci si ride perché e quindi comunque in un territorio abbastanza tradurre in sardo il budello di Tumà è Sugune Mamarua ed è una orribile. Cosa cioè lo dico perché spero che nessun sardo ci stia ascoltando ma o che comunque capisca che lo sto e invece ci saranno diversi sardi che staranno indietreggiando dal computer a occhi spalancati. Sì, cancellano dei preferiti il sito, ecco, tipo no, Nenia è una merda. Lo facciamo al porto di Cagliari c'è già scritto Nenia, è una buzzurra. Sì, così, vabbè. No, invece si fa per l'amore, per la scienza e per la lingua. Ecco. Quindi appunto si diceva cunnus, che è un termine parallelo che viene utilizzato in latino, addirittura vedi loro Nenia la pensavano al contrario, il latinorum, è un termine più gentile. Sì, infatti. È un termine più... che poi in realtà in italiano è attestato il termine conno, che non è quindi un, diciamo, un'italianizzazione standard di una parola dialettale, è proprio una derivazione diretta dal latino. Però è poco usato. E, perché la traduzione è ferita, esatto. Però nei posti più vergognosi. Esatto. Quindi adesso, attualmente al termine è rimasta solo la variante del posto più vergognoso, esatto. Che non tanto ferita, è esatto. Quello che è rimasto più nella strada. Proprio, sì, sì, diciamo nel fossile, della parola. L'anima. L'anima dell'immorte. Era proprio il locis uericundioribus. Quello. Che poi ha, diciamo, l'assunzione semantica, visto che si stava parlando, no, di questo significato che viene portato avanti nei secoli come un qualche cosa di vergognoso. Qua ci starebbe la parentesi pseudo-femminista. Tra l'altro avete visto l'ultima puntata di American Horror Story? Sì? Cioè, no, quella di ieri? No, no, ok, no. Allora non vi dico niente, no, vi infatti, volevo spoilerare una cosa, ma ero lì che aspettavo, poi mi sono addormentata. Male. C'entra il femminismo. Beh, sì, mi sembra abbastanza. Si ma già... è una bella variante storica che vi consiglio di andarvi a cercare. Questo microfono mi ha rotto i coglioni. Tanto si può dire. In queste puntate è tutto lecito. Si può dire. Si può dire. E, l'assunzione semantica del termine che viene portato avanti forse più nei giorni nostri moderni, che è quello della variante dell'accezione sessuale, e viene trasformato poi addirittura in un qualche cosa di osceno, ha fatto sì che molto più tardi, con la formazione delle lingue volgari italiane, il nome del frutto dell'albero del fico venisse censurato e passato al maschile, così come è per l'albero, quindi diventa fico. In deroga all'usuale regola della lingua italiana, mela per il frutto del melo, pera per il frutto del pero e basta, perché effettivamente fico, noi non diciamo fica, diciamo fico. Sì. Quindi c'è una grossa deroga nella, diciamo, derivazione da termine botanico a frutto del termine botanico, boh, se me la sono inventata. Chissà se è vero oppure no. A me invece viene in mente, in alcune scuole ci sono queste super protezioni, no? Su Google, secondo cosa digiti, hai dei blocchi che arrivano dall'alto e ti impallano la ricerca. Il controllo. Dicono, no, peggio, no, quello è proprio social total control. Per cui se mi è capitato di digitare tipo pianta benefica, non ti blocca perché tutto, c'è perché fica. C'è benefica. E quindi vai, devo dire che questi ragazzini però saranno grandi esperti. Ma di loro sono dei geni, ma si inventeranno la qualunque pur di vedere le peggio. Semplicismo estremo, pianta che fa bene. Esatto, sì sì. E poi c'era un'altra parola, fava non te lo dà proprio, cioè corso di orto scolastico era vietato assolutamente scaricare l'immagine delle fave, giuro. Ma quando ti fanno fare l'esperimento del fagiolo, io in casa non ho un fagiolo ma ho una fava e voglio capire se... Sì, se no, crescerà chiaro. Lo stesso una pianta di legumi. Loro probabilmente inseriscono, no, ma loro perché inseriscono nel database una sorta di... Sì, e quindi qualsiasi parola contenga quel non so che. Fantastico. Addirittura c'era la parola spezzata, tipo la prima sillaba era la finale della prima parola e la seconda sillaba era l'iniziale della seconda parola. Seppur scomposte, non te le faceva cercare. Sì, era una roba ghiacciante. Aiuto. Vabbè. Ecco. Così, piccola parentesi. Ci stava simpatica. Ora ci siamo. 3 minuti alla fine, pezzo. Appuntamenti. Farei così. Appuntamenti il più... Allora, dove siamo? Sì. Allora, oggi è banalissimo giovedì, giorno della brusca. Tra l'altro, date un'occhiata al palinsesto sul sito perché è aggiornatissimo. C'è una nuova trasmissione la domenica pomeriggio di musica. Brava, mi hai proprio, guarda, brava, così, ti voglio così. Molto, molto, molto, molto, molto veloce. E i nostri amici sono molto, molto bravi. Esatto. Sì, sì, clap, clap, clap per i nostri nuovi amici. E, che altro? Sono cambiati gli orari delle repliche, sia diurne che notturne. O meglio, cambiati gli orari delle repliche diurne e con una vasta integrazione di repliche notturne, perché abbiamo deciso che ci dovete ascoltare anche la notte. Tanto ecco, lo questo. Sappiamo che nessuno di voi dorme prima delle tre e mezzo, come tutti noi, per cui... Io alle tre e mezzo sono già sveglia, ma per me è già un nuovo giorno. Vabbè, comunque non stai dormendo. Infatti, onesto. Che diciamo? Diciamo soltanto di sabato. Allora, al CSA Next Emerson c'è uno spettacolo teatrale sulla lotta di liberazione del popolo palestinese. Alle 20 c'è una cena popolare. Alle 21.30 inizia lo spettacolo teatrale, mentre, se non leggo male, ma potrei sbagliare, quindi mi perdonino gli amici della polveriera, sempre sabato 21 ottobre alle 17.30 presentazione del libro L'inquieta attitudine, Camillo Berneri e la vicenda politica dell'anarchismo in Italia, di Claudio Strambi. Alle 19.30 per cena, alle 21 non riesco a penso Red Tree Grove, sì forse, però tanto si andate nelle pagine... Facebook, eccetera, eccetera, troverete tutto. Che manca, che what manca? What else? I don't know. Beh, a questo punto diciamo anche gli appuntamenti del venerdì. Cioè Genuino domani. Clandestino, Piazza Tasso, dalle 17, mercato. Sì. Questo è buono, entry, però non so, penso inizi da venerdì prossimo, quindi venerdì 27 ottobre, mercato di Genuino Clandestino, Piazza bene, Tasso. Così riesco ad andarci. E basta. Ma no, ma che dico? Guardate, ma è importantissimo, 20 ottobre, domani, venerdì, che casino che sto facendo, scusate, ma... 20 ottobre, venerdì, ovvero domani... Per chi ci ascolta in diretta, Trash Night Benefit per lo YAM dalle ore 21 alla polveriera. Basta. Wow. E poi usate social media per sapere cosa per c'è in città. Po', visto che lo possiamo dire anche questo. Sì, sì, oggi possiamo dire tutto. E prossima puntata vi aspettano sinonimi, altri approfondimenti etimologici e un po' di sineddoche. E vi facciamo sentire una musichetta o barzelletta? Barzelletta. Ok, ciao. Ciao. Chiudiamo con una barzelletta. Tu ridi, Che ti fa ridere la minestra? Sono minestre comiche. Anche il tuo babbo, sai, quando si era sposini, mi guardava mangiare la minestra e rideva. Poi mi diceva, brutta maiala, avete mangiarmi si rizza. Poi si sbottonava, io glielo pigliavo in bocca che avevo appena finito di mangiare la minestra calda. Oia oia diceva, senti che bocca calda, poi l'è morto. Su, mangia Mario, apri la bocca. Senti mamma, te lo ricordi quando il babbo, prima che gli venisse il cancro, che mi raccontava sempre la novella dell'uomo senza il cazzo? Già, era bella, Come faceva? Allora, l'uomo senza il cazzo, gli domandò al babbo. Scusi, dove si trovano i cazzi? E il babbo gli disse, è il paese dei culirotti. E da che parte vuoi? Vai dritto e tu troverai una muraglia di fiche. Non le guardare, poi giri verso il mare e troverai l'albero delle palle. Non le cogliere perché sono acerbe. Poi più avanti troverai le merde, tu segui le erbaverde e in fondo c'è il paese dei culirotti dove vengono i cazzi. Grazie, gli disse. Ma quando si incamminò, gli incominciò a scappare la piscia e non la poteva fare. E gli scappava sempre di più, che alla fine scoppiò e fece in terra un lago di piscio. E la gente che passava diceva, Madonna, guarda che pisciata c'è qui. Quello che l'ha fatto deve avere un cazzo grosso come un portaombrelli. E invece non ce l'aveva appunto.